noi. Non siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Non abbiamo dentro di noi l'anima spirituale. Dio è purissimo spirito. Anche noi abbiamo lo spirito, l'anima. E quest'anima non è immortale? Non esaurisce la sua esistenza qui, su questa terra, dentro le sbarre dei minuti, delle ore, delle settimane, dei mesi, degli anni e dei secoli e dei millenni? La nostra anima è immortale. Le malattie, la vecchiaia, le disgrazie neanche sfiorano l'anima e la morte non potrà toccarla. La morte agguanta di noi quello che è materia, la corporeità, il corpo che è materia, nutrito dai frutti della terra. L'anima non si è nutrita di patate o di bistecche o di vin buono. L'anima non mangia queste cose, è il corpo che si nutre dei prodotti della terra e alla terra deve tornare. Ma lo spirito è immortale. Ognuno di noi è un raggio della divinità rivestito di carne. L'anima immortale sentiamo tutti, ma io non ho mai sentito come lo sento ora. E sì che ho studiato da parecchi anni, posso ripetervi che ho studiato 18 anni prima di essere prete e 4 anni dopo che fa 22. E poi nelle regole della nostra famiglia religiosa c'è che bisogna studiare tutti i giorni. E io ho studiato anche ieri, stamattina, prima di salutarvi, avevo già studiato questo che sto dicendovi. Eppure, nonostante tutti questi anni di studio che ho dedicato specialmente nell'avvicinarsi del sacerdozio e negli anni successivi, ho studiato lo spirito umano, l'anima, perché sacerdote è pastore di anime, maestro di anime, guida di anime. Se non conosce le anime, se non stima le anime, se non approfondisce questo mistero, che prete sarà, che maestro sarà, che pastore d'anime sarà, che padre di anime sarà? Un povero impiegato e basta. Eppure vi dico che sto accorgendomi ora quanto è prezioso il tempo, più che non sui libri. Oh sì che ne ho passati parecchi libri per queste mani. Eppure proprio adesso, che gli anni si avvicinano al tramonto, che i giorni si avvicinano al tramonto, sento un amore alla vita che come adesso non ho mai provato. Vi parlo come foste tutti miei padri, mio papà, mia mamma. Adesso non vado più in cerca dei libri e anche stamattina quando mi preparavo, studiavo, nessun libro. Mi bastava pensare alla mia vita. Che tesoro! La vostra vita, che tesoro! Proprio mentre gli anni crescono e i passi che ci separano dal valico della morte si fanno sempre più pochi. Noi diremmo che è assurdo. Assurdo sì, se non avessimo l'anima spirituale e immortale. Col passare degli anni e con l'accorciarsi della distanza dalla morte noi dovremmo disperarci e chiederci: valeva la pena venire a questo mondo, attaccarvisi con tutte le forze e poi esserne strappati dalla morte? Valeva la pena? Non è una burla alla vita, una presa in giro, tanto sgobbare, tanto fare, poi basta, via, senza ritorno. Invece, man mano che gli anni passano e il tratto si accorcia dal valico, più ci affezioniamo alla vita. Credete a me, non sono mai stato innamorato della vita, tanto quanto lo sono oggi. Beh, quando studiavo liceo, quando studiavo filosofia, teologia, studiavo bene il trattato della immortalità dell'anima, è dei più impegnativi, dei più belli. adesso non vado più a ripescarli quei libri. Sfoglio il mio libro, prendo la carta d'identità e leggo quando sono nato, faccio il conto quanti anni ho. E dico, quanti se ne sono andati dei miei compagni di scuola? Morti, non tutti, ma quasi. Credo che se ne siano ancora un paio della mia età. E dico, signore, ma è possibile? Com'è bella la vita oggi? Con questi anni sulle spalle, com'è bella la vita? Come la si apprezza man mano che ci si avvicina al valico? Perché il valico non segna la fine della mia anima. L'anima percorre il suo destino, che è lo stesso destino di Dio. Dio è immortale, Dio è eterno. E quando l'hanno voluto inchiodare alla croce, ha detto: sì, voi distruggerete questo tempio, il corpo è tempio di Dio, e io lo riedificherò in 3 giorni. Tertia autem die resurgam, il terzo giorno risusciterò, e anche il mio corpo seguirà l'immortalità dell'anima. Il nostro destino è quello stesso di Cristo, Dio. Perché non ci spaventasse la morte, perché al valico arrivassimo dolcemente a Dio cantando, ha voluto percorrere il sentiero della morte, morire sul Calvario, una morte atroce. E la risurrezione avviene pure sul Calvario. Chi è stato a Gerusalemme si ricorda che sono pochissimi passi che separano la croce dalla tomba vuota dalla quale Cristo è uscito come un bambino esce dal grembo di sua madre, dalla culla.